Ciao, buongiorno. Oi, ciao. Capito, ascolta, non so. Non ci hai detto, non ti ho capito. Questo stavo ascoltando, ma non mi senti? Sono accostato a Black. Ecco, già non io, sono un male. Oh, già ti sento. Sì, ma io sono un ascolto qua. Sono sempre in ascolto qua, perlomeno quando sono a casa, se no non ci sono. E io mi ho finito di mangiare poco fa, dopodiché sono in tratto. Hai finito di mangiare poco fa? Cazzo, sono le 4, pure due mangiare male così. Da fare la spesa e roba del genere, siamo aumentato di due qualche cosa, pur cucinare, capito? E quindi, per quello che ho mangiato tanti. Ah, per quello, ho capito. Sciù che caldo che sto facendo. Sembriamo all'agosto pieno. Questo, la tua testa va bene. Quando sono uscito a comprare le sigarette, adesso le 10. Cioè, ci stava bene, non c'era questo gran caldo. Io beh, anch'io, stamattina stava meglio. C'erano lavori. Adesso c'è troppo caldo. A domo, al fresco. A domo si sta bene al fresco. Io c'ho la finestra aperta. L'altro giorno sono entrato allo Spiglia Verona. A momenti non c'è manco dentro quelle cose. E sono sceso a piedi, me l'ho fatta tutto a piedi, da qui a giù. E ho praticamente sul lato c'era il coda, cosa una letta ci aveva. Come sono uscito fuori, dopo mezz'ora ho cominciato mal di petto, mal di coso, il collo. Sono andato là, veloce, da Nico, ho detto dammi veloce per scaldarmi, ho detto vai di piretto mi sento male. Infatti ho bevuto una, poi l'altra me l'ha offerta Roberto Belligabili e poi me la sono andato a casa. Bisogna stare attenti quando si beve, soprattutto quando il fisico è accaldato, bisogna stare molto molto attenti, se no è un bel casino. No, già mi sono fatto la bibita calda da Nico, era pieno me l'altra sera, pieno, che era a posto di silenzio, mi sono seduto quasi vicino alla porta, figurati, entrava questa rietta, poi mi sono scaldato e ho preso, poi sono andato via. Non mi stavo sentendo male, c'era un freddo dentro, non ho messo la maletta, non ho messo, aspetta telefono. Ehi, rispondi, già sono qua. Sono rientrato. Sono rientrato, però due sicuri del telefono con Stefano. Che mi ha chiamato lui. Manco la Olbia. Eia, me la metto che finisce ottobre. Vale. Ehi, siamo sentiti. Infatti mi ha detto quando rientrava mi chiamava. Ci vogliamo vedere, andare a mangiarci una cosa. Però ancora è meglio, dai, fa tutto settembre, meglio. Vabbè, quello sì. Meglio così, io invece sto battagliando qualcosa, non sta come alle piedi, cazzo. Non so cosa diavolo si battere la testa con questi, cazzo. Sono andato alla LIMS, nulla da fare, no, sempre se sei risposte, Milano deve aspettare, è tutto a posto, si deve preoccupare, di là, tutto quanto assieme. Che cazzo, cosa aspetto? Ho detto là. La carrotta, gli ho detto. Detto la gente sta scherzando, ecco, non sono solo io, hanno detto così. Io non ci posso fare niente, cazzo. C'è foto di coglioni queste, le foto, guarda. Non so proprio cosa diavolo fare. Né come comportarmi, se fagli un esposto, ma cosa cazzo ne so io, boh. Ma c'è un casino lì, capito? C'è un bel casino, un bel di pratiche, un cacciatore delle pensioni, questa quota 41, è un casino, capito? Io ho fatto un'integrazione del militare, 18 mesi, sono 80 euro in più, e in pratica mi devono gli arretrati anche da gennaio sino al mese corrente. ancora non mi hanno manco risposto, figurati. Hanno accettato la pratica, però ancora non mi hanno dato niente. Pure pazienza di mio vento. Me mi hanno dato, prima mi è arrivata la lettera del corso, delle poste. Poi da lì sono andato e ho ritirato la carta. Poi ci vogliono altri 10 giorni per darti il PIN. Dopodiché sono andato, ritirato, che ho fatto 102 mesi c'era assieme, c'era. No, 600 euro c'era, 2 mesi assieme. Ci ho ritirati e addirittura sembra tutto a posto. E invece, perché in pratica gli hanno dato l'ISE a marzo, hai capito, no, no, la roba l'ho bloccata per quei motivi lì, e la stavano esaminando tutti. Bel casino, per quello purtroppo. Adesso fa poco, siamo a gennaio, toccherà fare la domanda nuova, faccio il foglio di Piacenza a dicembre adesso, così quando il capo glielo manda si attacca a pupa adesso questa volta. Questa volta non mi butti di più. Se no il caffè, minchia, come sono andato io era pieno di domande, di pratiche da inviare, da fare, tutto online, e lavoravano tanto anche quelli, però ti ripeto, all'inizio c'è un amico che mi ha detto non ne togliamo più, stanno arrivando tante di quelle domande per questa quota 41, capito, i lavoratori precoci con quota 41, chi ha già superato i 42 anni, un bel. E quindi ci sono un po' incasinati, però piano piano già le vadono tutte, fino ad avere un po' di pazienza, già le vadono tutte. Vieni Vusciani. Io sto aspettando un'email di conferma, capito? Perché ho fatto tutta un'integrazione, non li lascio a loro 24 mesi militari, siccome io ero anche retribuito militare, quindi mi è stato conteggiato un calcolo particolare. E mi arriva, sono 80 euro in più che mi trovo sulla pensionistica. Però mi devo agli arretrati da gennaio, da quando sono andato in pensione, sino al mese corrente, quindi può essere sino a settembre, sino a ottobre, sino a novembre, non so. Vediamo quando la prendono in carico. Per il momento non, cioè quando prendo in carico, per il momento mi hanno risposto che l'hanno presa in carico, mi sai quando ero, no? C'è quelle luci, quello che vogliono facciano, non se ne hanno 80 euro mi va a tenere ricco. Io lo so, ma c'era una tipa fuori piangendo, quando sono andato io 2 settimane fa, dice come faccio, dice ho due figli da campare, non so come fare. Gli ho detto guardi, quello che hanno risposto a lei l'hanno risposto da me, da me, e secondo lei come campo, gli ho detto. L'unica cosa è bisogna andare a me, come ha detto quel giudice lì, siccome ci abbiamo fatto bene il sostentamento, andiamo, spacciamo, tanto in galera non ci possiamo andare, così ha detto quel giudice, quindi faremo quello a un certo punto, andiamo tutti a prendere, a spacciare erba, e allora ci campiamo, finché non c'era nessuno. Ho capito. Capito. Aspetta che sta bevendo il cane, devo pulire il muso, aspetta. Già, a me mi stava aspettando che ha portato giù il mio invece. Che piantonato nella porta. Il caso che veste. È caldo, adesso fa poco. Scendo questo paraculo il cane. Allora questa mattina mi ha svegliato. Si è messo a si vicino a me. Si è messo a bagliarmi. Poi per me ha tolto le coperte, il cazzo. Dice, ah, non senti, aspetta che ti faccio alzare io. Non è 9. Oh. Ah, 9 ci sta vicino a Filippo di Musigheggia. No, lui prima di 10 non esce. No, questo mi ha svegliato stamattina alle 9 e mezzo. Prima è venuto ieri notte a dormire un po' con me, no. Sembra sdraiato, dopo mezzanotte io ero a testo, ti do un petto, un fianco, ho dormito tutto stonto, cazzo. Poi è preso, è andato via, e questa mattina alle 9 mi è venuto a svegliarmi, si è messo a bagliarmi di fronte a me, e mi sono svegliato e ho visto che mi ha fatto una sorpresa, ragazzi. L'ha pisciato, il coso l'ha pisciato nella cameretta, una mano pulita con l'ammoniaca, con la profumata, era a posto. E stamattina ho sgridato, quando ho sgridato si fa tutto strano, si fa, puoi dire scusami, scusami. Sembra che non capisca, il cane già capisco. Anche il mio quando lo sgrido abbassa la testa e fa l'offeso. E vabbè, e cosa vuoi fare? Anche loro, se non li porti, è un casino, capito? Dobbiamo portarli spesso, 2-3 volte al giorno, in modo che siano tranquilli e rilassati, se no non fa. No, ce l'ho fatto io già, no. La sera bisogna lo porto, capito? La mattina non posso portarlo, perché bisogna, prima di tutto lo porto su a uso, da fargli il chip, che me ne sono dimenticato. L'altra volta siamo andati insieme a Giovanna e entrate e mi ha detto, dice, venga domani, che dice, oggi no, non possiamo fare nulla. E siccome non era tutti i giorni a disposizione mia, Giovanna, anche perché sta lavorando, adesso che in ferie, cioè, ce lo porto. Così vi faccio mettere questo chip e sono più tranquillo, capito? Che se mi beccano, mi trombano bene, mi sentate senza il chip a me, che vi giro il male. Attenzione, perché c'è un controllo per il cane allucinante. Se no, se lo dovesse fare il mio, nel marciapiede non fa niente, fa solo la pipì a volte. Va nell'erba, nel giardino mio, in quello comunale, eccetera. Però se dovesse sporcare il marciapiede e non pulisci, sono cacchi amari, dobbiamo stare molto attenti. Chi ha il cane deve avere cura anche degli altri, non solo del cane stesso, anche degli altri, capito? Quindi bustettina alla mano, raccogliere subito e buttare nei contenitori che ricevono queste cose, se no, e poi non va bene, scusa, perché deve sporcare le marciapiede dove ci cammina la gente, assolutamente. Bisogna fare le cose fatte bene, gappa gappa. No, ormai lui la marciapiede già non la fa. Lo porto lui dove c'è già diretto di fronte a cosa? All'ex negozio di scappa, lui sopra le piante, oppure dall'altra parte, dove c'è il marciapiede, da una parte il marciapiede dall'altra, c'è perché gli hanno fatto una specie già diretta. Lo porto lì anche perché è pulito, perché bisogna stare attenti, cioè non ci caga solo lui, ci cagano anche gli altri, che dice, poi magari non si perda le più pucci, capito? E quindi ci sto attento, quando vedo che lui comincia a dolare o a controllare il piscio degli altri, figlio, lo chiude immediatamente così tranquillo. Il cane me la mano e mi piace pulito, profumato, eccetera eccetera. Certo che sì. Antonio, ti devo lasciare, ci sentiamo dopo. Ok, io sono sempre in ascolto sul 10. Devo scendere un attimo giù che mi stanno chiamando gli operai. Guardatori. Ci sentiamo dopo. Lascio acceso, non spengo niente. Io sono qua, mi ascolto su 10, al limite se ci sentiamo dopo. Manda un messaggio a Marco perché fino a fatto, io le ho mandato ieri ma Marco ha risposto, la mazza ne vai. Dai, ci sentiamo dopo Antonio, ok? Sì, va bene, già lo chiamo io a Marco se mi risponde dopo. Ok, a dopo, là, ciao. Io siamo su 10, già, se ne ha voglia già entra, se no potrei solo rinviarti. Ciao, a dopo, tanto non subito, dai, ciao. Va bene, fai pure, non c'è problema. Tanto porto giù a lui il cane, così la profitto. Infatti. Qua mané. Oh, cucugnau! Ma aspetta che sto sentendo il messaggio, no? Eccomi qua. Allora, no, non sto entrando tanto perché sono abbastanza giù di un po' di psicologicamente, un po' di anche di tono muscolare, proprio sono a terra, con le quattro gomme bucate, capito? A terra proprio. Però vabbè, ho sentito il messaggio, adesso oggi entro, vediamo che ho sentito il messaggio. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Io lo so che ti mando messaggi divertenti, no? Perché verso le 4:30 oggi ho fatto due chiacchiere con Antonello, che era in pausa. Infatti ti mando un messaggio a Marco per vedere se entra, se è vivo, capito? Perché non sentirti può esserci sempre qualche problemino, visto che non sei stato bene. Marco, più ti tiri giù e più rimani giù, invece devi fare come quello là, capito? Più lo mandi giù e più mi tira su. Deve essere al contrario la cosa. Tanto per il momento non si può cambiare niente, così è e così rimani. Tutto che ti abbatti, l'importante è che stai bene, tu devi star bene moralmente, capito? Perché fisicamente siamo tutti acciaccati, però moralmente bisogna essere in forma, perché sennò si finisce tutto il baravano, capito? Io mi sto aspettando a Stefano che rientri a Sassari, così andiamo a farci una pizzata e vediamo un pochino nuovamente di rimettere in sesto le cose. Pochi, buoni, capito? E via così, no? Già mai capito. Eia, me l'aspettavo là, quando hai detto devi fare come quello, più lo mandi giù più ti tira su, no? Il caffè, cos'era? La pazza? Non mi ricordo. Ai tempi di Manfredi, buon'anima. Sì, sai cos'è? Qua tutte le giornate sono uguali. Purtroppo non faccio nulla, un po', non manco la forza di farlo. Ma pensa che ho rinunciato al mare anche quest'anno, cosa eccezionale, perché gli altri anni facevo di tutto per pur di andare. Certo, quando non avevo voglia, non me la sentivo, non andavo. Giornate sempre tutte uguali, sto uscendo solo per fare commissioni, tipo oggi dal medico, a farmi prescrivere la solita terapia sostitutiva ormonale. Poi mi sono tornato adesso, sono uscito a fare commissioni, a comprare il giornale, a comprare le medicine, a fare una mini spesa, però per diletto, proprio per divertimento, non sto più uscendo. Io sono, è come che fosse le resti domiciliari, probabilmente ci sarei anche bene, sempre pusado, ho sdraiato, pusado. Vabbè, poi c'è ancora caldo, è detto tra noi. Io sono ancora in tenuta estiva e spero che venga il freddo, perché non le palle piene. E a chi lo dici? Avevamo il programma lavoro dopo pranzo, ma non l'abbiamo fatto perché è troppo caldo, staria calda. Quest'aria calda è allucinante. No, te lascia perdere, tanto non sono così urgenti queste cose e via, capito? Può fare un palchetto, un tramezzo, una cosa, no? Lascia perdere, è troppo caldo. È andato almeno sino a fine settembre. Tempo buono, un po' dai nuvoloso, un po' di maestralotto, un po' però acqua non è adatto. Capito? È chiaro che è noiosa, io non mi posso lamentare, Marco, anzi ti dirò che, aspetta che metto, ecco il lock, già funziona questo microfono. Io non mi posso lamentare, la verità, ogni giorno c'è una cosa nuova, una cosa da fare, il tempo lo sto abbattendo molto molto bene, anzi c'è un sacco di cose da fare, però per te diventa molto nel fatto che stai a casa, non esci e la giornata è sempre quella, è lì il problema, capito? Quindi è un casotto, però l'importante è stare bene. Poi moralmente, te l'ho già detto, no? Dipende sempre da te. Moralmente dipende sempre da te. Se ti vedi qualche cosettina e qualcosa di diverso, vabbè, se no le giornate sono queste, ma se non le puoi cambiare, anzi, ancora c'è un po' di luce, ma ti ricordo che al prossimo mese cambia l'orario, o a fine mese, non lo so, e alle 5:30 è già buio, quindi diventa ancora più triste e monotona la cosa. Ma c'era un periodo che mi piaceva più uscire col buio, come cambia l'orario, no? Che non ha la luce, ma adesso non mi fa differenza, l'uno vale l'altro. Adesso gli studenti torneranno a scuola che c'è ancora caldo, non in Sardegna, ma già nella penisola, molte città sono già entrate a scuola. Da noi non so se entrino il 15 o il 20, non mi ricordo. E quindi ci dovranno fare 8 mesi di, come lo chiamo voi, 8 mesi di carcere, 8 mesi di galera. Mamma mia, la scuola non la potevo vedere, ma non per le compagnie, proprio per lo studio, mi ripugnava. Era una cosa proprio, come dire, mi veniva un senso di sgomento, o quando c'erano le interrogazioni, mamma mia, sembrava l'andata al patibolo. Lo so, però bisogna farla. Io avevo staccato da ragazzo, poi avevo ripreso perché mi serviva, altrimenti non c'era scritto di poter lavorare, fare qualche concorso. È così, capito? Però dai, per noi non è un problema la scuola. Non lo so, forse mi pare il 15 o il 20, sì, hai ragione. Continente è già iniziato. Continente, la maggior parte, comunque, prima di fine settembre iniziano tutti anche in Sardegna. E vabbè. Per il resto, ti hai informato poi di quell'antenna? Hai controllato o no? No, Claudio, la verità, non ho manco guardato. Poi anche Luca, avendomi detto che forse c'è la possibilità di montare almeno una mezz'onda, allora ho detto inutile mettere la bazooka, che non, ti dirò di più, rende meno dell'antenino da macchina, perché è un carico fittizio, è fortemente caricata, è una cagata, va bene solo se la metti su un tetto, non bene, bene è una parola grossa, capito? Se c'è la possibilità di mettere anche una mezz'onda è tanto di guadagnato, oppure una Grand Plane, una Boomerang full size, però cioè l'antenna, per come la penso io, deve essere almeno un quarto d'onda, e ti dirò, nemmeno caricata, almeno lo stilo deve essere sviluppato in lunghezza, un quarto d'onda effettivo, perché poi comincia a caricare il radiale, comincia a caricare lo stilo, e alla fine dove irradia l'antenna? Infatti, no, ma lui adesso ci dobbiamo vedere, perché penso che sia già arrivato il pezzo per il televisore, capite, c'è un televisore schermo piatto, uno smart TV, ma glielo prendo io e lo metto in un'altra stanza. Dovrà cambiare l'alimentatore, capito? Penso che sia arrivato, quindi appena ci vediamo lo vado a prendere il televisore e vedo un po' il lavoro che c'è da fare, che non ho idea. Mi ha mandato le foto, sì, il poggiolo, però io se non vedo non riesco a organizzarmi. Come vedo, mi organizzo le staff e tutto, le faccio prendere l'antenna e la piattina. Cavolo, io già ne ho di 58, intanto lui le serve di 58, si può vedere. Vuole una decina di metri di 213, c'ho anche quello. Su, l'avevo tolto, avevo messo la Camille. Capito? Vabbè, queste cose poi le vediamo, deciderà lui cosa vuole fare, dai. Va bene, per il resto tutto ok. Io sento a Stefano stasera, c'è ancora tutto il mese di settembre e una quindicina di giorni di ottobre, quindi rientrerà, diciamo, già inoltrato, dai, il tempo è già cambiato, e ci organizziamo, ti chiamo, vieni con me, così esci, andiamo a mangiarci una cosa, e sapevamo dei risultati. Per il resto, Marco, anche io fortunatamente mi sono inserito nei lavori condominiali, così iniziate a dare una mano e poi adesso ci sono tutti i giorni, quindi mi sto impegnando almeno la mattina e il primo pomeriggio, se no anche per me sarebbe stata una grande noia, perché insomma io non sono anziano, dopo termine andare ai circoli a giocare a carte e quindi non saprei cosa fare, tutto lì. Capito, mi hai? Ehi, ha capito, ti ho. Ma almeno ho capito, impegni il tempo. Detto anche mamma, no? Quando ha smesso di disegnare, voleva fare questo, quello, voleva andare a scuola di ballo, voleva andare a fare questo, quello, quell'altro. Beh, non ha fatto niente adesso. Dico, purtroppo sta tutto il giorno con la TV buttata lì, un po' come facevo io, però io la TV l'accendo dalle 8 di sera. Io quando riposo il pomeriggio non voglio televisione, non voglio sentire rumori, casini. Invece lì sta dalle 8, 7, 8 di mattina, dipende da che ora si sveglia, fino alle 3, alle 4 di notte, anche quando dorme, con la TV accesa, 20 ore di televisione ininterrotti. E poi se vuoi contare anche i consumi, minchia, e d'altronde dice, a me dice mi fa compagnia la televisione, se mi tolgo pure quella cosa faccio? Affissare il muro. Poi ogni tanto, vabbè, mi ascolto musica, mi guardo film particolari, per esempio varie argomentazioni, tipo film ambientati sulle carceri, film che parlano di psicologia, di psicanalisi, quelli ti mettono la paranoia, quindi ti mettono in paranoia più di film sul carcere. La televisione cosa? La devi guardare per forza, se no ti annoi ed è un casino. Assolutamente sì. No, io sì, dopo cena, però ce l'ho anche in sala radio, quindi adesso è accesa, sì, che sto guardando studio aperto sport, c'ho tutto il sistema a calcio, insomma, già non mi annoio, che però ancora sta facendo caldo, quindi sai, non fa neanche a stare al baracchino. Sì, lo tengo acceso, io lo devo tenere acceso purtroppo la radio, però non ti nego che voglia non ce n'è molta, non c'è più nessuno, non c'è dialogo, non c'è voglia di fare niente. Oramai a volte mi metto ad ascoltare un po' anche le HF, sto un po' trascurando, e voli uno ne parliamo. Ma non c'è voglia, non ti nego che non c'è voglia di far niente, è la stessa cosa sarei tu. Ci sono quei momenti che non hai gana, Marco, proprio zero. 27 me ne è proprio scesa, perché non c'è più dialogo di niente. Ieri mi ho fatto le chiacchiere con Giulio, stavamo parlando di acqua, di quello, di quell'altro. Però se non ci sono argomenti validi da stare lì, riprendi, alla fine ti rivarano i yo-yo e non sai più cosa dire, capito? E poi più presto entri in radio e più non sai, alla fine non sai più cosa dire, quindi va bene, due chiacchiere a quest'ora, sino alle 7:30, 8:15, poi ciao, invece buon viaggio, perlomeno in questo periodo, dai, poi magari più avanti si vedrà, quando le giornate sono corte, è buio, magari piove, c'è freddo, allora sei costretto magari a stare a casa, c'è dei baracchini, ti fai due chiacchiere, ma se no con chi parli? Col mulo. E poi, vabbè, sono anche poco intelligente, perché in realtà il baracchino fa da terapia, ti distrae, capito? Mi ricordo che quando mamma è andata in gallura a insegnare, quando l'hanno sbattuta in gallura a insegnare, cioè non è che ti tengono una sassa, ti dicono da domani tu vai lì, e se ti rifiuti perdi la cattedra, come funziona non lo so bene. A lei le ha salvato il baracchino, lo sai, si è lavorato il baracchino tipo a Zacchena, a Palau, a Maddalena, Pensa, alla Maddalena c'era una situazione tipo questa, no? Pochissima gente, quasi nessuno. Come è cominciato a entrare lì, è entrato una, è entrato un'altra, è entrato quello, e si è ravvivata la frequenza quell'anno. Poi anche lì tra Palau e la Maddalena c'erano certa gente gelosa di quel gruppo, allora portante a nastro, una cionfra anche lì praticamente, dai. Vabbè, però l'ha detto che l'ha salvata il baracchino, e lì gli parlava abbastanza, quindi passava anche il tempo così, più un po' di televisione, un po' di Bonolis, che era divertente. Insomma, tutta la gallura ha fatto lei, Arzachena, Palau, la Maddalena, Olbia, poi altri paesini intorno, adesso non mi ricordo manco i nomi, o località, per esempio la scuola era, mi pare, località Abbiadori, con la R, però non mi ricordo il paese. Abbiadori è vicino al Tacchena. Abbiadori è lì vicino al Tacchena. Io sono stato. Io ho lavorato in gallura e per un po' di tempo, ma soprattutto ho fatto il militare lì alla Maddalena, quindi. Però no, vabbè, ragazzi, anche se il baracchino ce l'avevo già, a casa di mia madre, però non ho mai pensato a mettermi il baracchino lì. C'erano altre cose da fare lì. Quando si è ragazzini così, figurati, avevo 18 anni. Cosa ridere, bei tempi Marco, bei tempi. Adesso, ci sono stato 2 anni fa alla Maddalena, 2 anni fa era una totale disperazione. Ehi, sai cos'è? Quando c'era mamma, lei ha lavorato in gallura dal 90 al 2000, o 2000 e frusci, adesso non mi ricordo. Poi passata a Sassari. All'epoca c'erano ancora gli americani, era più viva, c'era gente, vedi questi militari americani, queste donne, no? Il nome Melody, no? Tutti i nomi carini, Melody, e poi vedevi questo bestione, ne ho mai trovato, proprio un'altra razza, certe spalle quadrate. Beh, militari americani, no? Insomma c'era più vita, poi come ha chiuso la base, hanno voluto che chiudesse la base, non hanno voluto le basi americane a Maddalena, adesso è Morfurio, è una città morta, una città, paese diciamo, dai. È morto tutto lì, anche nelle molte attività credo abbiano chiuso, però all'epoca era bello anche. E mi ricordo una volta che avevo ricevitore lì alla Maddalena e stavo ascoltando le comunicazioni in banda marina degli americani, no? In VHF marino. A un certo punto questa di colore con la mimetica americana mi guarda, come per dire, oh, cosa sei accuscendi? Lo so, anch'io quando ero lì, nel 79, c'erano gli americani, sì, c'era viva la Maddalena, tu uscivi la sera a passeggio, io tutte le sere, perché facevo servizio solo la mattina, lì alle scuole, agli sottufficiali e quindi pomeriggio, riposino, poi mi cambiavo e me ne uscivo, io ero sempre borghese, mi divertivo tantissimo, avevo un sacco di amici, ma avevo portato anche la moto, figurati, avevo il Vespone, abbiamo fatto amicizia con tutti i ragazzi giovani che c'erano, a volte io ti ingresso imbarchevamo, ce ne andavamo a Palau, ce ne andavamo a Olbia in moto estate, al mare non ne parliamo, via Ricciolina, Spalmatore, tutti a Caprera, ma Maddalena l'avevamo girata a tutti, però andavamo anche da Palau in poi, andavamo a Santa Teresa di Gallura l'estate, capito? Per dire, prendevamo il traghetto delle 2, alle 3 eravamo tutti a Santa Teresa, a rientrare a notte fonda con l'ultimo traghetto degli americani, perché non c'erano più traghetti. Era un bel divertimento, io l'ho fatto proprio come divertimento, l'ho pagato, stavo bene, l'ho fatto come divertimento militare. Però era un'altra vita. Se tu vai adesso a Maddalena, non c'è più Arsenale, c'è questa cosa che ti fa venire disperazione, questa cosa che avevamo fatto per il G7, cos'era, G8, la Managia Chiesa, cioè tutto è stato abbandono. Guarda, ti dico, è veramente una disperazione. Io sono andato 2 anni fa, ma mi hanno detto che sta ancora peggiorando, ne sta cadendo tutto. Beh, sicuramente non credo fossero quelli della destra che hanno voluto la rimozione della base militare americana. Quelli sono i sinistroidi, capito? Che hanno votato, hanno fatto casino per farla rimuovere. E il governo li ha appoggiati, adesso non so che governo fosse. Certo, non è rassicurante avere una base militare attiva, perché noi pensavamo in caso di casini grossi, di guerra, vabbè, se c'è la terza guerra mondiale, addio. Certo, non Sassari, ma se buttano una bombettina lì ne sentiamo gli effetti anche qua, tra radiazione e tutto. Insomma, un po' c'era stato un periodo di tensione, ma ti parlo di tanti anni fa, e temevamo un po' per la Maddalena, mamma che stava insegnando la Maddalena, temeva un po' che degenerasse la cosa, capito? C'era ancora la Russia, o meno, era il periodo che stava cadendo proprio l'Unione Sovietica, era quel periodo di transizione, di tensioni, eccetera. Però gira per vedere la Maddalena in quelle condizioni era meglio che rimanesse alla base americana, c'era più commercio, più gente, più tutto, più turisti anche, mi ricordo. Adesso è ridotta male. Io mi ricordo quando andavo a trovare mamma la Maddalena, una volta sono andato io guidando io, no? Quando avevo la macchina mia. Io già prima sono riuscito a restare sveglio, più o meno dall'altezza di Monti in poi la sono fatta guidando dormendo quasi, uno più sì, uno no, mamma mia, una pericolosità, perché io per i lunghi tragitti tendo ad addormentarmi, ma mi, sai, rullio, quello che è, mi mette sonno, e quindi poi salta anche a Monti a insegnare, L'unico episodio negativo è stato a Monti, no? Siccome lei lasciava la macchina alla stazione quando doveva venire a Sassari in treno, si era ritrovata le 4 gomme bucate, no, non bucate, squarciate proprio a coltello, e praticamente tutti avevano capito che si trattava di un alunno in particolare, uno in terza media, che già nei paesi già lo sa come sono, già in terza media beveva forte, ma forte, e quando beveva questo era fuori testa, ne faceva tutti i colori, quindi sicuramente era lui. Poi i carabinieri, sì facciamo qua là, poi il comandante l'hanno trasferito, manco per le balle, non hanno fatto niente, ne hanno una voglia, guarda, in certi posti lì. E vabbè, meno male che poi l'ha aiutata una persona, ha preso il treno gomme nuove, le hanno montate, però l'unico episodio negativo è stato quello, capito? Un paese di pastorazzi, lui. L'unica cosa bella di Monti è che aveva quella bellissima zona di laghi, una specie di lago, fiume, non so cosa sia, comunque era meraviglioso, me lo ricordo, ne abbiamo anche le foto. Sì, c'era anche quella fontana molto bella. Io quando viaggiavo mi fermavo molto lì, c'avevo lì nella fontana al fresco, mangiavo il panino, una coca, capito? Perché anch'io ho lavorato, io viaggiavo tutti i giorni, poi ho riuscito ad avvicinarmi a Perfugas il primo periodo, all'aeroporto pesato di Perfugas, e poi praticamente a Sassari, dipendevo da Sassari. Non ho mai lavorato praticamente a Sassari, un periodo ma pochissimo, qualche mese così a Trucco Reale, poi ho fatto Alghero, Montagnese, sempre il portabilizzatore, e poi sono passato alla depurazione per finire le scatole piene, e facevo tutta la zona a partire da Sorso, cioè sede Sorso, tutta la zona appunto lì della Bassa Gallura, Vidalba, Santa Maria Covina, Spadesi, Trinità, tutta quella zona. Sino andarmene. Marco, sacrifici, non ti nascondo che i sacrifici sono stati fatti. Ragazzino, quando ero alla Salas a Cagliari, stavamo costruendo il depuratore, stavo lì dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato, non rientravo per niente, proprio perché il mio lavoro mi è sempre piaciuto, la verità, però dormivi lì. Quando ero nella zona di Santa Teresa, lo stesso, siccome la strada era molto brutta, trafficata, buia, rientrare la sera d'inverno, allora c'avevo una casettina piccolina, una camera di cucina e bagno, che poi è sempre piena di colleghi. Stavo lì perché quando tu la sera sei stanco, non sei rilassato, metterti in macchina d'inverno con la pioggia, quella strada, non so se la conosci, la panoramica che da Santa Teresa va a Sassari, devi fare tutta la panoramica, Vignola, tutta quella zona lì, è bruttissima d'inverno, molto molto brutta, e quindi stavo lì, capito, mi hai, uscire, e c'era mia figlia anche che era piccolina, quindi avevo voglia anche starmene a casa, ma per rientrare a Ishaibidam mi rimanevo lì. Comunque sì, il posto più brutto era Monti, perché era proprio un paese, mentre Olbia già era una cittadina, negozi di tutti i tipi, c'era anche Usciana. Olbia era già come Porto Torres, non so, c'è già una cittadina, non un paese. E vabbè, poi si è avvicinata a Sassari anche. Pensa che quando lì faceva la supplente, mamma, no? A Sassari dintorni, San Giovanni, a tutte le scuole di Sassari, bene o male, ha fatto. E poi quando è entrata di ruolo, purtroppo è dovuta andare dove la spedivano. Anzi, si è salvata in extremis, ti dico perché. C'erano due sedi disponibili, una era tipo Maddalena e una era Ala dei Sardi, cioè lei sarebbe morta ad Ala dei Sardi, sarebbe morta veramente, perché c'è l'ambiente un po'. Invece per fortuna c'era un insegnante giovane che ha scelto Ala dei Sardi, dice sì, mi prendo Ala dei Sardi perché è più bello, li fanno geminate, a me piace quel tipo di vita, ed è andato Ala dei Sardi, e per fortuna mamma è capitata la Maddalena, se non ne sarebbe uscita male, capito? Poi sai, lì c'era il mare, a lei piace il mare, a lei piacciono sempre le cittadine sul mare, infatti lei ha detto che non avrebbe problemi anche andare a abitare a Porto Torres se dovesse capitare, a lei piacerebbe una casa a Porto Torres, poi più vicina al mare meglio è, anche Scoglio Lungo mi si avvicina, dice sì, si abitua, si adegua anche lì, sarebbe adattata molto bene. E poi a proposito, me la sono trovata alle magistrali, ci ho avuto una supplenza alle magistrali, me la sono trovata in classe. E già io, quando andavo a fare le interrogazioni, non studiavo mai. Infatti poi mi aveva detto a casa, ma che figura mi fai fare, figlio insegnante, sei un asino, cazzate vestito. Eppure a Malagana, nella Malagana il diploma è stato preso, a calci in culo mio proprio. Sì, vabbè, era così. Figurati che mamma era bidella al nautico. Chi si entrava a scuola? Boh, a saperte. Infatti me ne ero uscito io dal nautico. In terza me l'ho scritta geometri. Perché non faceva. La scuola mi piaceva tantissimo, soprattutto esercitazioni marinaresche, tante cose c'erano, tante attività che mi piacevano. Però il fatto che c'era lì che ti controllava, a me poco, anche mio fratello lo stesso. Il fratello, vabbè, si è diplomato nautico, però ha sopportato un bel. Ogni mattina entrava, mi vedevo l'intanto, sì, sì, va bene, ciao. Cazzo, c'è quelli veri, capito? Non potevi scioperare a periodo di scioperi, delle cose. Oh, dovevi fare sempre il gaggio, tu devi sempre entrare a firma, ci ho rotto le balle, ho detto, beh, io fai quello che ti piace, io me ne sto andando da qua, boh, ma io ne sono uscito all'autico, mi sono iscritto a Jupiter, basta. È una cosa che non si poteva. È insopportabile quando c'è un genitore a scuola, che sia professore, che sia bidello, che sia lavagomodi, hai sempre il controllo e le cose che non ti lasciano mai in santa pace, capito? E quindi anche io ho fatto così. Mentre le mie sorelle invece erano tutte e tre lo scientifico, sempre lì a Porto Torres. Guarda, io sono nato lì, io sono nato proprio lì, di fronte allo Scoglio Lungo. La mamma c'era a casa sempre lì, capito? Ed è una bellissima città, Porto Torres. Quando ero ragazzino io, tu immagini, Porto Torres è arrivata a 40.000 abitanti col boom della Sir. Era una cosa allucinante, tanto è vero che quando poi noi siamo andati tutti via, nel senso mia sorella, vabbè, sono sposata, eccetera, insomma, una sorella che ha 60, 65 anni, 67 forse. E quindi quando sono sposate, anche casa mia madre è molto molto grande, aveva preso due dell'Eniken a dormire, capito? A dormire, mangiavano e dormivano, vitti alloggi avevano, due persone splendide che guardano, neanche un padre si comportava così, non facevano mai mancare niente, qualsiasi cosa, non si pretende a noi perché eravamo piccoli, io, mio fratello e una sorella, gli altri due erano già grandi, ma erano delle persone veramente, per dirti che c'era uno spazio enorme a Porto Torres per tutti, c'era vita, veramente vita. Adesso, guarda, allucinante, io sono stato da poco, ma non c'è, negozi completamente chiusi in piazza, Corso Vittorio Emanuele, non c'è più niente, morto, tutto morto, morto. Oh, cioè, rispetto, tu stai parlando rispetto a quando eri giovane, tu ragazzo, eppure quello che salva Porto Torres è che è un porto, quindi già in estate sbarcano per i turisti, proprio a furia dura, quindi magari chi lavora di più sono i bar lì, sai, piccoli ristorantini, trattorie, è fortunato ad avere un porto. Per esempio, vabbè, tu mi dici la stessa cosa, Alghero, sì, ci puoi andare in estate, bancarelle, sai, tutto lungomare, bancarelle, gente, turisti, bella gente da vedere, più bar pieni, no? Per il movimento. Però se ci vai in inferno, se ci vai in inverno è desolante, dai, è desolante. Però Porto Torres non la vedo così messa male. Certe volte anche quando andavamo a vedere il mare in inverno con mamma, quando voleva andare, adesso finché non si mette a posto le gambe non usciamo da questa situazione. Ci piaceva vedere anche il mare in inverno, tu dici ma solo quello c'è, il mare. Guarda, quando ero ricoverato c'era un ragazzo di, come istante, di Torino, dove, da quelle parti, no? Dice, ma voi sardi avete una cosa che noi non vediamo nemmeno da lontano, avete il mare, continuava, avete il mare. Ho detto sì, il problema è che in Sardegna abbiamo solo quello, abbiamo solo il mare, però poi ci sono problemi sociali, non c'è lavoro come al nord e nemmeno più al nord, detto tra noi. Mio cugino ha dovuto andare fuori per lavorare, perché sennò qua faceva solo il cosa faceva in hobby. A Sassari faceva il portapizze e boh, cioè, si metteva questo cassone dietro la moto, portava le pizze, però da lì non uscivi. In continente, certo, in Italia sì, più che lavapiatti non ha trovato. Purtroppo non si è potuto laureare perché i genitori erano poveri e sono poveri tuttora, e lui quasi ne ha fatto una colpa ai genitori, del fatto di non aver potuto studiare, laurearsi. Cosa volevi nascere? Figlio di ricchi? Cazzo, chi non c'è buono così? Vabbè, insomma, più che lavapiatti in Nord Italia non ha trovato. Poi ha deciso di creare questa attività sua con i soci in Polonia, la famosa Aluen, gelateria di alto livello, in più aveva importato il caffè e la tazza d'oro, proprio per esportare un prodotto sardo, no? Per farlo conoscere in Polonia lì. Poi vabbè, tra soci si sono un po'... praticamente loro erano sempre in ferie, sempre in permessi, con loro chiedeva i permessi lui e le ferie lui, però qua là sempre problemi, insomma, alla fine doveva lavorare sempre lui e quelli sempre in ferie. Allora si è staccato e ha fatto roba indipendente per conto suo, tipo quel famoso coordinatore di sala, quello che comanda tutti i camerieri, il commis di sala, non so come si dica. No, il commis di sala è un cameriere, non si chiama più cameriere. I commis sono camerieri esperti, insomma. Il maître di sala è il responsabile della sala, quello che comanda i camerieri, quello che... tutto quello che si sviluppa in sala, quello è il maître. Poi sono i commis che sono... dei camerieri, insomma, esperti, camerieri specializzati. Ma se c'è un produttore, anche quando arrivano le navi, la gente di passaggio, non si ferma nessuno, sì, all'uscita del porto, o addirittura dentro il porto, fanno colazione ma si innandano. Non c'è niente, non c'è stato nessun incremento neanche quest'anno, perché anche ad Antenna 1 l'altro giorno ho intervistato il sindaco di Polo Torres, assessore al turismo, e non c'è più economia, non c'è più niente a Polo Torres, non c'è turismo, non c'è niente, è tutta roba di passaggio, capito? Mentre Dolbia è diverso, Porto Torres è così. Alghero, come hai detto tu, naturalmente è molto bello d'estate. Io ho tre sorelle, tutti i fratelli di mamma, di babbo ad Alghero, sono tutti ad Alghero i marti, quindi io adesso vado venerdì a casa ad Alghero, quindi vado venerdì, sabato e domenica, mi rientro lunedì, c'è mia figlia in ferie e se ne vuole andare un po' al mare ad Alghero, e quindi andiamo via venerdì mattina e rientriamo lunedì mattina, per dirti. Quindi conosco molto bene Alghero, ma puoi approfittarne ancora tutto il mese di settembre. Dai primi di ottobre Alghero è spento, cioè non v'è più nessuno, capito? E poi tra l'altro anche proprio su linea Istat, Alghero quest'anno ha avuto un calo del 30% rispetto agli altri anni, ma perché non c'è proprio più niente, capito? C'è tanta di quella miseria, tanta disoccupazione, tanti problemi che poi sono successi in Alta Italia, terremoto, alluvioni, gatti e matti, il ponte di Genova viene crollato, a Milano che è successo un casino, cioè tanti turisti che magari pensavano di fare le ferie diversamente, chi cazzo si muove da lì per andare dove? Non c'è più uscito, non c'è più niente, sono stati grandissimi disagi in Alta Italia, capito? E quindi i denari sono pochi per potersi permettere di fare ferie lunghe, e quindi anche Alghero non ha fatto un grande turismo quest'anno. Poi vabbè, non hanno il porto come Porto Torres, con proprio navi di turismo, perché lì c'è il porto ma per navi private, quello che è, insomma, barche private, yacht, però non le navi da turismo. Vabbè, io avevo letto un commento quando la Nuova faceva commentare i propri articoli, adesso non li fa nemmeno più commentare sul sito della Nuova, devi andare su Facebook per commentarli. E diceva sì, qua a Porto Torres fanno il carnevale estivo, fanno i concertini in piazza, fanno spettacoli e spettacolini, ma poi dice per coprire tutti i disagi che ci sono, problematiche sociali, mancanza di lavoro, la gente non sa dove sbattere la testa, così ha scritto un porto torrese. capito, è tutto una, tutto scene, tutto spettacolini, ma poi tutto buccia, niente polpa, cioè a Porotopes. Ormai così è così. No, ma no, non è come la gente dice, come gli altri anni. Ti ripeto, il turismo è calato tantissimo in tutte le. Sai perché Cagliari, vedi Cagliari è già una, insomma, una grande città, ma c'è un porto micidiale, quest'anno mi sembra sono arrivate 4-5 navi da crociera grandissime, però scendono lì e rimangono lì, e quindi è chiaro che c'è un po' più di movimento anche sui negozi, c'è incremento di denaro, ma anche ad Alghero mi pare una o due volte c'è stata una nave da crociera, però rimane fuori e quindi devono andare a prenderli, portarli, cioè non è una cosa che vuol dire ma sta andato così, c'è mare brutto, capite? Cioè è diverso quando invece la nave attracca in panchina cioè è diverso. Ti ripeto, io c'ho mia sorella lì e abitano un centro storico, anche via 20 settembre, a Lido dove c'è la casa Fertilia, io c'ho una sorella che abita a Fertilia, a Punta Negra e Fertilia. Ma però quest'anno l'albergo non era come gli altri anni, si vedeva poca gente in spiaggia, proprio perché l'albergo non era pieno. E quando ero ragazzo io non si poteva stare manco negli scogli perché era piena la spiaggia di Punta Negra, l'albergo pieno, completamente Fertilia, non si poteva camminare la sera, uscire a passeggiare, proprio sembrava un paese. Ah, ma non v'è nessuno, non c'è nessuno, proprio non c'è nessuno, Marco. Ma è triste, questo 18 è sempre a voci, è sempre a voci, ce l'ha sempre con qualcuno, è una cosa, come fa a vivere così? E poi ha un difetto grosso, è porto a Torlese. Mamma mia, la serietà, allora arrogante, per carità. No, a parte gli scherzi, questo è stravagante, forte, ma forte, vabbè, comunque per adesso siamo in tregua, ci sopportiamo a vicenda, oppure per meglio dire ci ignoriamo a vicenda, però guai che scenda una goccia d'acqua, se per caso metti, spendi roba bagnata, no? Appena appena bagnata, che scenda una goccia d'acqua, ui, va bene, bene, mi era sembrato di sentire qualcuno che si è affacciato sul canale, mi era sembrato di sentire, avanti che vuole entrare, forse ho sbagliato io, ora qualcuno basso, no? Io c'ho un minimo di squelch qua, per eliminare il QRM, non lo so, prova a chiamare tu. Sì, non lo so, io ho anche portato a Filippo, io ero abituato che lui oramai era conto suo, casa di mia figlia che qua a casa mia è un casino, io ti porto al nonno, io, mamma mia, adesso per maglia c'è il giardino ad Alghero, 3 giorni si rilassa di nuovo, infatti quando è venuto qua è sempre drumido, sempre stanco, sempre curicato, invece là stava sempre correndo, a destra, a sinistra, lo chiamavi ed era sempre curicato, ma era fresco sotto qualche albero, qua è un casino, lui a casa. Un altro mondo. No Marco, vado, dai. Vado perché sono già le 8. Caspita, non me ne ho manco accorto. Vedevo che era buio, non mi sono accorto di niente. Già le 8 sono. Dai Marco lì, vado che devo portare il cane. Se ci sei che non chiudi, magari ti chiamo dopo quando rientro. Un quarto d'ora, dai. Porto a fare i bisogni al cane. Ok. Prova a chiamare Antonella a vedere se. Ma detto che entrava stasera invece non sentisce. Eia. Vabbè Claudio, adesso visto che sono le 8, da per oggi va bene così, dai. Come alla fine ci siamo fatti la chiacchierata. Non ho entrato nessun altro, vabbè, giornate, magari un giorno chiama uno e non c'è nessuno, un giorno chiama l'altro e non c'è nessuno, alla fine la gente si rompe e non accende. Io questi giorni non ho nemmeno acceso, questi giorni che ero assente, non a Celgio, perché ti ho detto ero un po' in paranoia, è una cosa, è uno stillicidio così in me. Vabbè, ci saranno momenti migliori, d'altro canto io non voglio prendere niente che tiri sul morale, non ne voglio pastiglie, farmaci di quel tipo, perché a parte che non fanno niente. Va bene, comunque è molto che il cane abbia un pezzo di terreno per correre, per divertirsi, fa molto, è quello. In città, mamma mia, a parte l'uscita per fare la pipì in casa è sprecato il cane, capito? Non gode come quando è all'aria aperta. Va bene, buona passeggiata, buon tutto, dai. Io chiudo qua, mi guardo il telegiornale e già sentiremo. Guarda, appena possibile, quando sono meno paranoico, oppure mandami un messaggio se sono in gana di entrare già entro, dai. Io no, ma c'era uno che chiamava con una voce pappedinata, io non devo stare a giocare. Se chiamano, riconosco la voce, rispondo, ma infatti non ho manco risposto. E non ascolto anche ieri. Ho detto, ma te l'hai tanto nello che è morta signorina Giovanna Fusato? No. No, non lo sapevo. Mamma mia. Purtroppo era grande, ma cosa improvvisa oppure era malata da tempo? Nulla, no. Settimana scorsa sono andato a comprare materiali ed era lì. Sempre. Come sta il signor Klein, pensione? Benissimo, era grande, mi sto rilassando, ha visto, io ancora al lavoro sono. Io non l'ho pinnacciata, sono la giubbattuta. Niente, nel sonno, molto, ho trovato a Marzia stamattina, me l'ha detto, guarda, qua, nel sonno, non abbiamo visto che, infatti ho aperto Antonello stamattina, di solito apriva lì, non l'abbiamo visto, abbiamo chiamato al telefono, non rispondeva, è salita ed era coricata nel suo letto, tranquilla, grumita, è morta addormentata, capito? 90 anni compiuti da poco, mi ha detto Marzia. Domani sera alle 3:30 ci sono i funerali. Vabbè, pazienza, anche lei è finita l'era Fusaro, Vittorio Giuliandardo, da Giuliandardo, adesso rimane il fratello, quello che è a Cagliari, che tra l'altro ho conosciuto ad una bellissima manifestazione radiantistica proprio nella zona di Cagliari, in provincia di Cagliari. Aveva delle radio stupende, antiche, della linea Collins, radio americane, radio di tutti i tipi. E quello è, penso che sia l'unico fratello che gli è rimasto. Va bene, dai, ciao Marconi, sì, vado a portare a Filippo perché si sta già stressando le balle qua a casa. Ciao, ci aggiorniamo domani, se non ti sento ti mando un messaggio, ciao. Eia, comunque, vabbè, un po' mi dispiace perché adesso non si vedrà più. Guarda, non avevo la minima idea che avesse 90 anni, non, se me l'avessero detto non ci avrei creduto. E comunque la morte del sonno è la morte migliore, perché non ti accorgi di nulla, sei addormentata e boh, capita, 90 anni, è passata direttamente dal lavoro al paradiso, eh? Va bene, dai, ci sentiamo, dai, non voglio pensare alla morte, se no mi viene paranoia di notte. Ciao Claudio, ciao, buona serata. Ciao Marco, ciao, buona serata, e a tutti tocca qui, prima o poi. Ciao, ciao.